Ciao ragazze! Ciao! Ciao! Dai, va bene, iniziamo! Onore! Said I've pondered long, listening to Mother Nature's song. And let me tell you, son, life ain't just for fun. But if you want to have a ball, here's how you get it done. You got to do. Buonasera a tutte e tutti, tutto lo ascoltatore di Radio Wombat, questa è Nervature. Oggi puntata insolita, come vedete si inizia con un insolito ritardo, una mezz'oretta, così. Vabbè dai, sono giorni di festa, ce lo possiamo permettere. E sì, ho deciso di trasmettere anche oggi, nonostante appunto il ritardo, ma più che altro perché vi annuncio già, settimana prossima non ci sarà Nervature, e magari vi manderò una replica, vedremo quale. Giusto per non lasciarvi così da sole con la bobina. E quindi ho detto, ma sì, anche se oggi è festa nazionale, lunedì 2 giugno, ho detto, ma pace. Quindi eccoci qua. Allora, direi come sempre di iniziare con un primo pezzo musicale, perché non bisogna mai troppo stressarci fin da subito. Mettere un pezzo bello, bello vivace, anche se poi dopo vi annuncio già che l'atmosfera si rilasserà di nuovo. Ma niente, mi piglia così. A tra poco. Ah. Ed eccoci con questo inizio bello frizzante, ma in realtà la playlist che ho preparato è un po' diversa, ma non sarà nemmeno così preponderante la playlist. Oggi scoprirete con calma il motivo. Allora, che cosa ho preparato per voi oggi, a parte questo grande ritardo? Allora, faremo una prima lettura, una mezz'ora, di un libro che ora vado a presentarvi, per poi dopo collegarci con, se tutto va bene, se il collegamento funziona, che i problemi tecnici sono all'ordine del giorno in questo periodo, comunque se tutto va bene, con la nostra consueta giardiniera Cecilia, che ci racconterà appunto che cosa bisogna fare in questo mese. Speriamo vivamente che il collegamento stavolta funzioni bene, perché siamo il 2 giugno, non era mai successo che si facesse questo collegamento all'inizio del mese, era sempre a metà o addirittura alla fine, mentre invece, beh, ovviamente essendo i lavori del mese sarebbe comodo saperlo un attimino in anticipo. Allora, partiamo però dalla prima parte della puntata. Vi leggo un capitolo del libro La Bianca Scienza di Marco Boscolo, comunque il sottotitolo è Spunti per affrontare l'eredità coloniale della scienza, è un libro tascabile, vabbè, di un'edizione che fa tutte stampe di libri molto molto brevi, molto anche sintetici ovviamente. È un libro molto recente, addirittura l'anno scorso, wow, super recente. E quindi, insomma, vi andrei a leggere una parte, nonostante in realtà sia tutto molto interessante all'inizio e alla fine, ma diciamo che questo che vi leggo è il capitolo centrale, mentre invece la parte iniziale e quella finale sono un pochino meno legate strettamente all'ambito delle piante, e quindi niente, oggi inizierei con questo. Magari leggo solo l'introduzione, ecco, quella ci può stare per capire un attimo di cosa stiamo parlando. E poi si entra nel vivo del capitolo. Nell'esperienza di ogni lettore curioso esistono momenti che potremmo definire simili a una sorta di folgorazione. Guardi le solite cose che conosci bene e non le vedi più come le vedevi prima. All'improvviso, la nostra visione del mondo o di un suo pezzetto cambia profondamente e in modo duraturo. Abbiamo la sensazione di una sorta di click nella nostra testa, di una serie di tessere di puzzle che vanno al loro posto, un posto che prima non sapevamo nemmeno che esistesse. A volte è un'idea che ci mette di fronte a una prospettiva per noi inedita, senza che debba essere un'idea rivoluzionaria. Spesso, infatti, basta che sia un piccolo scarto laterale. Così accade che ambiti diversi, fatti e cose del mondo che sappiamo e conosciamo, ma che appartengono a settori disciplinari differenti e apparentemente lontani, comincino a dialogare nelle nostre teste e, clic, cambia profondamente il paesaggio che vediamo. Io mi occupo di scienza come giornalista da una ventina di anni. Ho raccontato centinaia di storie di scienziati e scienziate che hanno condotto ricerche importanti, che ci hanno fatto conoscere meglio e più in profondità il mondo, spesso contribuendo anche a renderlo un posto in cui vivere un po' meglio. Accostando questa attività alla mia passione per la storia in generale e per la storia della scienza in particolare, ho però cominciato a nutrire dei dubbi sulla narrazione, che potremmo dire mainstream, della scienza. Così concentrata su scienziati e alcune scienziate, questa è un'altra storia che meriterebbe altrettanta attenzione, che provenivano fondamentalmente dall'Europa o dal Nord America, con qualche rara incursione di giapponesi, indiani e pochi altri. Il momento del click è arrivato qualche anno fa con la lettura delle cronache del movimento Science Must Fall, di cui scrivo nell'ultima parte di questo piccolo libro. Studenti e studentesse delle università sudafricane manifestavano contro il giogo coloniale che ancora oggi si manifesta in vari modi nel racconto e nella pratica della scienza nel grande sud del mondo. Da quel momento in poi, la storia della scienza come l'avevo conosciuta dai libri di scuola e dalle pubblicazioni specialistiche mi è apparsa per quello che in realtà è: una narrazione, tra le tante possibili, di un'impresa umana. Una narrazione che non è innocente, ma seleziona, piega fatti e situazioni, e soprattutto esclude chi ha contribuito all'avanzamento delle conoscenze, ma non è parte di quel ristretto gruppo sociale che per secoli è stata la comunità scientifica internazionale. Saperi tradizionali e conoscenze di culture non occidentali sono spesso confluiti dentro al corpus del sapere scientifico ufficiale, ma senza che venisse riconosciuto il loro ruolo. Da quel fatidico click ho cominciato a leggere ricerche di diversi storici della scienza che lo mostrano in modo inequivocabile. E mostrano anche come la scienza occidentale e le varie forme di pensiero colonialista abbiano un rapporto stretto, spesso non evidente in superficie, ma per certi versi molto fecondo per una parte della popolazione mondiale, mentre contemporaneamente ne esclude un'altra parte. Questo libro non mostra nessuna scoperta originale, ma fa quello che secondo me dovrebbe fare il giornalismo, racconta delle storie. Ho preso alcuni episodi fondamentali della storia della scienza moderna, dalla sua fondazione ai tempi di Niccolò Copernico fino ai giorni nostri, passando per l'epopea coloniale in senso stretto e muovendomi in diverse discipline. Ci sarebbe moltissimo altro da raccontare, ma la mia speranza è che queste poche pagine possano contribuire a far uscire il dibattito sulla decolonizzazione della scienza dalle aule universitarie e dalle pubblicazioni specialistiche. Chissà che non serva a stimolare qualche altro click. Ed eccoci allora, rientrate in voce. Questa era l'introduzione che avete sentito del libro, lo ripeto, La Bianca Scienza, spunti per affrontare l'eredità coloniale della scienza di Marco Boscolo. E ora quindi vi vado a leggere il capitolo centrale, il quale titolo è Botanica coloniale. Durante il periodo coloniale, la botanica era in tutto e per tutto big science, come lo sarebbero state molto tempo dopo la fisica delle particelle o la corsa allo spazio durante la Guerra Fredda. Le prospezioni botaniche delle potenze europee tra il XVII e il XIX secolo sono un'impresa scientifica dagli altissimi budget che coinvolge alcuni degli intellettuali più importanti del periodo e ha come palcoscenico il globo nella sua interezza. Il perché di tanto sforzo è perché a Big Science, oggi come allora, tende a corrispondere Big Business. C'è il più antico traffico di spezie, beni di lusso che da secoli generano profitti stellati per quei mercanti, come per esempio i veneziani e i genovesi, che riescono a portare dall'Asia in Europa la noce moscata, il pepe, la cannella e altre piante che finiscono sulle tavole dei ricchi. A queste merci se ne affiancano altre che arrivano dopo i viaggi di Cristoforo Colombo dal cosiddetto Nuovo Mondo, e che trovano soprattutto nella popolazione urbana europea una clientela disposta a pagare profumatamente. Al centro della rete di rapporti tra scienza, politica e commercio c'è un'istituzione fondamentale, ovvero il giardino botanico. Orti votati alla raccolta, alla conservazione e allo studio delle diverse varietà di piante esistevano già. In Italia, in particolare, ce ne sono due che si contendono il titolo di più antico d'Europa e probabilmente del mondo, ovvero l'Orto Botanico di Pisa, fondato nel 1543, e quello di Padova, fondato nel 1545. Entrambi sono nati all'ombra delle due importanti università cittadine come strumento di ricerca e di didattica. In un periodo in cui le piante sono praticamente l'unica fonte di rimedi contro le malattie, gli orti rinascimentali servono sia da riserva di piante da cui trarre medicamenti, sia da strumento per insegnare ai futuri farmacisti a riconoscere quali utilizzare. Questi orti hanno dunque un ruolo di grandissima rilevanza sociale, ma anche economica. Lo testimonia il fatto, per esempio, che dopo la sua fondazione l'orto padovano viene murato per scongiurare i furti. Le piante possono essere molto preziose. Nella storia del colonialismo europeo, uno scarto decisivo avviene nel XVIII secolo e sottolinea proprio il valore economico crescente che le piante acquistano nella cultura e nella società dell'epoca. La più grande potenza della prima fase del colonialismo è la Spagna, non per caso il paese che ha finanziato i viaggi di Colombo e che ha, prima tra le potenze europee, sfruttato le risorse naturali delle Americhe. Per praticamente due secoli ha però preferito sfruttare soprattutto i metalli preziosi. Sono l'oro e l'argento delle miniere che finanziano lo splendore in patria del siglo de oro, il 600, cioè quel secolo in cui la ricchezza e lo sfarzo culturale della Spagna sono probabilmente al loro apice. Dall'inizio del XVIII secolo, l'interesse economico della Spagna nei confronti dei territori, oltre l'Atlantico, muta e segue la tendenza che le altre potenze coloniali europee, Inghilterra, Francia e Paesi Bassi, stanno seguendo. Una tendenza che si potrebbe riassumere dicendo che da quel momento fino alla fine dell'era coloniale, il vero oro è quello verde delle piante. We'll be right back. E allora continuiamo con questa lettura. Rispetto alla prima fase coloniale, in questa fase si rinnova il ruolo dei giardini botanici, che acquisiscono un'importanza crescente. Per i sovrani delle potenze imperiali, i giardini reali sono uno sfogo di potere e lustro. Maggiore la varietà delle piante esotiche che vi sono coltivate, più la corona potrà mostrare la propria potenza. E oltre a questa funzione politica importantissima, ovviamente, i giardini continuano a svolgere il proprio ruolo di catalogo nella conoscenza botanica, ma su una scala del tutto nuova. Ora è fondamentale che i giardini possano diventare centri di aumento della ricchezza botanica estratta dalle colonie attraverso un lavoro di studio delle singole piante che possono dare un profitto. La moltiplicazione degli esemplari per la costituzione di vere e proprie piantagioni e lo sviluppo dei migliori incroci e delle migliori varietà per massimizzare gli investimenti. La centralità dei giardini botanici è testimoniata dal loro censimento alla fine del XVIII secolo, quando cioè la macchina coloniale si sta preparando a inserire le marce più alte. In questo momento i giardini botanici europei sono oltre 160. Ci sono quelli delle capitali, come il Jardin du Roi di Parigi, o i Royal Botanic Gardens di Kew, a Londra. Ma ci sono anche le decine di giardini di servizio che Francia, Inghilterra e altri paesi mantengono nei territori che controllano lontano dai centri di potere. Nel 1804 Thomas Dancer, botanico alle dipendenze della corona inglese di Giamaica, dà un'idea di quello che stiamo raccontando in un breve trattato intitolato Some Observations Respecting the Botanical Garden. La necessità di un giardino botanico per la promozione della conoscenza delle piante in generale, per l'introduzione e la coltivazione di quelle esotiche che sono rare, curiose o utili, sia per la medicina che per le arti, è nell'epoca attuale così universalmente nota che sono fortemente voluti in una qualunque parte del mondo civilizzato. La storiografia su questi argomenti è vastissima e interi libri sono stati scritti sui singoli giardini botanici o sulle singole specie vegetali. Qui, per provare a mostrare quanto la botanica e per estensione la scienza tutta sia intimamente legata agli imperi e alle loro potenze economiche, raccontiamo una storia emblematica di una pianta che ha giocato un ruolo fondamentale nello sviluppo della forza imperiale inglese. Ma avremmo potuto scegliere anche l'albero della gomma, fondamentale per la nascita dell'industria automobilistica d'inizio Novecento, oppure la noce moscata, le cui storie sono state recentemente raccontate dallo scrittore indiano Amitav Ghosh nel libro La maledizione della noce moscata, di Neri Pozza del 2022. la corteccia peruviana. Secondo la leggenda, nel 1639 la moglie del viceré spagnolo del Perù, Ana de Osorio, viene guarita da una febbre malarica con un rimedio ricavato dalla corteccia di una pianta che cresce sulle Ande. Il fatto viene visto quasi come un miracolo in un contesto in cui le popolazioni europee non conoscevano una medicina efficace contro la malaria. Sarebbe stata la sua guarigione a mettere in moto la prima importazione in Europa della pianta, la cinciona, che deve il nome a Chinchón, la città spagnola nei pressi di Madrid di cui Ana de Osorio è la contessa. Oggi sappiamo che il genere cinciona comprende circa 25 diverse specie che sono originarie delle foreste degli attuali Perù, Colombia, Ecuador e Bolivia e che in natura crescono tra gli 800 e i 3400 metri di altitudine. Le popolazioni indigene conoscono queste piante da prima dell'arrivo degli europei e della creazione del vicereame del Perù sotto il controllo della Spagna. Tutte le parti di questi alberi contengono delle sostanze chiamate alcaloidi, una delle quali è il chinino, che sono efficaci contro le febbri malariche. È però la corteccia la parte che ne contiene la maggiore concentrazione e quindi diventa il prodotto più pregiato e più ambito. Sono gli stessi europei che per vari motivi arrivano in Perù e negli altri vicereami andini a notare che nelle comunità locali la corteccia di questi alberi viene impiegata per preparare rimedi contro diversi tipi di febbri e anche per alleviare i sintomi della sifilide. Ma da quando ha potuto ricostruire Lucille H. Brockway, una delle prime ricercatrici a studiare il ruolo della botanica nel contesto coloniale, si tratta di notizie che vengono accuratamente nascoste agli europei. Lo si legge chiaro e tondo in un trattato del 1663, pubblicato a Ginevra e intitolato Anastasis Corticis Peruvie, che fa il punto sulle conoscenze riguardo alla corteccia peruviana. Siamo poco più di una ventina di anni dopo l'episodio della prodigiosa guarigione della contessa di Chinchón e dell'inizio dell'importazione in Europa. L'autore, un certo Sebastian Bado, non ha nessun problema a riconoscere che gli indiani, come definisce le popolazioni andine che conoscevano il chinino, avevano una conoscenza delle piante medicinali molto più profonda e sviluppata dagli europei. In particolare sapevano preparare un infuso di corteccia che guariva dalle febbri malariche, mentre i colonizzatori non avevano idea di come curarle. La sincera ammirazione per le conoscenze botaniche delle popolazioni indigene nel primo periodo dell'esperienza coloniale non si limita al caso della cinciona. Diversi storici, sia europei sia sudamericani, hanno infatti documentato come i filosofi naturali, i botanici e gli esploratori del XVI e XVII secolo non esitano a riconoscere l'estensione e la varietà dei saperi indigeni in fatto di botanica. È un atteggiamento che nel corso dei secoli cambierà completamente, fino alla negazione di qualsiasi intelligenza o conoscenza delle popolazioni indigene che agli occhi dei colonizzatori perdono di dignità, di intelligenza e perfino di umanità. Per tutto il 600 e il 700 la corteccia peruviana arriva in Europa dall'America meridionale, alimentando un mercato disposto a pagarla profumatamente. Gli stati colonizzatori sborsano cifre importanti per assicurarsi scorte del rimedio, perché vedono progressivamente nel chinino un elemento fondamentale per proseguire la propria operazione di colonizzazione di territori, come quelli tropicali, dove la malaria è una malattia endemica. La stessa Brockway sottolinea in Science and Colonial Expansion, The Role of the British Royal Botanic Gardens del 1979, come il chinino sia stato un fattore determinante per l'espansione degli imperi coloniali in Africa. Sembra più che una coincidenza che l'Africa occidentale sia stata penetrata da un significativo numero di europei solo dopo la costituzione dell'industria del chinino. Un'industria che si sviluppa e afferma nel XIX secolo e passa proprio dai reali giardini botanici di Londra. Nothing always comes to mind. E allora, eccoci qua che rientriamo in voce, 20:09, si entra quindi nella seconda parte della puntata. Avete sentito quindi prima appunto la lettura di una parte del capitolo del libro La Bianca Scienza. Siamo arrivati più o meno a metà, si finirà magari la prossima volta e come vi dicevo non è lunedì prossimo, sarà quello dopo. E invece ora si cerca di entrare in collegamento con la nostra ben amata giardiniera Cecilia. Ci senti? Sì, buonasera, ciao Addu. Aspetta, perché noi non ti sentiamo in questo momento. Riprova. Sì, io ti sento molto bene, Addu. Eccoci, meglio, meglio. Perfetto. Ci stiamo perfezionando, ok. Ecco, mi viene in mente ora che non ho messo la sigla dei lavori del mese. Se aspetti un secondo, mettiamo la sigla e poi, e poi partiamo con la rubrica. Tra l'altro, questa dovrebbe essere la sigla aggiornata con dei volumi sensati, finalmente. Ora ve la faccio sentire subito. Arriva. 30D, conta le gemme. Thank you. 30D conta le gemme. I lavori del mese. Ed eccola qui finalmente, i volumi fatti in modo decente. E allora siamo appunto in collegamento con la nostra giardiniera. Ci senti, giusto? Io vi sento, ma la sigla non l'ho sentita. Sì, sì, è normale, questo mi dispiace. È normale, ok. Purtroppo, forse c'è un modo per fartela sentire, ma io non lo conosco per ora, quindi... Comunque, i nostri ascoltatrici e ascoltatori dovrebbero averla sentita. Allora, che cosa ci puoi raccontare, Cecilia, quindi per questo mese di giugno che inizia a essere, a farti sentire in tutto il suo calore, la sua afa? Scusate. Dunque, benvenuti a giugno, il mese della bellezza, delle grandi fioriture, esplosioni dei colori, nelle sue mille accezioni, mille forme, e benvenuto anche un po' di riposo, perché giugno, diciamo, è appunto la stagione in cui inizia il grande caldo, come tu hai ben detto, e gli interventi del giardiniere, della giardiniera, sono un pochino meno frenetici del normale, diciamo, di quello che almeno è stato fino ad ora. Quindi la cosa più interessante è l'osservazione e il godere i frutti del lavoro svolto precedentemente. Infatti basta veramente, è sufficiente fare una piccola passeggiata in collina per rendersi conto di quanto sia generosa in questo momento la natura, anche dopo le belle piogge che almeno qui in Toscana abbiamo avuto. Infatti io sono appena rientrata da una lunga passeggiata carichissima di fiori, ho raccolto tantissime cose oggi, anche perché nei prossimi giorni dovrò allestire un matrimonio e lo farò con le erbe che ho raccolto in passeggiata oggi, domani continuo e poi parto per allestire il matrimonio. Quindi questo per dire che la natura si offre tantissimo, è il momento di godere di tutta questa grande generosità e bellezza, e però non è che andiamo in vacanza ancora, ancora ce ne vuole per andare in vacanza. Ci sono delle piccole cose molto importanti da fare in questo periodo nei nostri giardini e nel nostro orto. Ritorna il leitmotiv naturalmente del diserbo, perché diciamo, il crescere delle erbe indesiderate non smette mai, neanche con le temperature elevate, quindi dedichiamoci sempre a tenere le nostre aiole e il nostro orto pulito quanto si può dalle infestanti, quando queste risultano così, cioè infestanti. Come dicevo anche nella puntata precedente, quindi ai lavori del mese precedente, può essere molto utile sapere identificare quelle erbe così non troppo nocive, che possono comunque anche risultarci utili in qualche modo, perché ci sono delle infestanti che per il loro ruolo di infestare possono fungere ad esempio da pacciamatura naturale, e quindi in questo caso mantenerle e al limite circoscriverle è molto utile. Un esempio che posso fare, che mi viene in mente, è ad esempio con l'Erigeron calvischianum, che è questa, probabilmente qualcuno che ascolta già lo conosce, è una erbacea perenne molto rigogliosa, che ha una capacità espansiva e autodisseminante molto molto elevata. Limitarla nei perimetri giusti può aiutarci, perché comunque mantiene anche il terreno fertile e soprattutto non esposto al sole cocente, ed è anche molto bella da vedere, perché il suo aspetto è quello della margheritina, una margheritina molto piccola, bianco-rosata. Oppure mi viene in mente il convolvolo sicuramente molto molto espansivo, ma contenuto, anche questo ci può risultare utile allo stesso modo. Quindi diciamo il diserbo è il leitmotiv, cioè una cosa che va sempre mantenuta nei vari mesi, diciamo, della bella stagione, perché in inverno, per fortuna, questa cosa si limita enormemente. Altra cosa importante adesso è tenere un pochino a bada alcune cose noiose come malattie fungine e in particolare la peronospora, che è un fungo che si manifesta particolarmente in condizioni di grande caldo, quindi e si manifesta, si riconosce dal come posso dire, dal seccare a macchie alcune parti delle rose. Come non è la titolatura, che sarebbe il black spot, che è proprio molto circoscritta ed è si manifesta con delle macchie nere, tonde, molto perfette. La peronospora è un pochino una bruciatura della foglia abbastanza diffusa e non con una geometria precisa, quindi non è un cerchio più o meno come succede con la titolatura. La peronospora è molto molto importante da limitare, insomma, da controllare, perché può compromettere totalmente il raccolto, ad esempio, delle viti nella vite. E quindi pergolati di vite, come abbiamo molto spesso nelle campagne fiorentine, devono essere tenuti sotto controllo e si interviene in questo caso con una spruzzata di ramato, semplicemente con ramato o con la poltiglia bordolese. Queste sono le cose un pochino antipatiche che però è bene saper riconoscere e intervenire tempestivamente. Nel caso in cui così non si interviene, allora davvero la pianta, la vite si defoglia totalmente, ingiallisce prima, secca le foglie, ingiallisce, perde le foglie, ma non solo. Soprattutto seccano i frutti, quindi non potremo più raccogliere la nostra uva ornamentale o uva da vino, chiaramente. Questa è molto importante. Senti, mi viene da chiederti invece per quanto riguarda potature e poi anche dopo riproduzione, se questo è un periodo consono. Allora, per le potature sì, diciamo le potature, anche lì avevo accennato un po' la puntata Sì, precedente, infatti magari si si comincia, ricorda velocemente. sì, si ricorda velocemente, è bene intervenire su arbusti che hanno fiorito a primavera. Quindi se vogliamo contenere o riportare in forma un arbusto cresciuto oltre misura, è bene potarlo adesso. La fioritura è passata, ad esempio nella forsizia o nel lilà, per esempio, che hanno una fioritura abbastanza precoce in primavera, è molto utile potarli in questo momento su una buona gemma, che si riconosce perché comunque le gemme sono rigonfie in questo momento, e ridare forma, svecchiandolo anche laddove ha prodotto del secco. Quindi questo è il momento molto, molto indicato, anzi idoneo, necessario per fare questa operazione. Anche l'Espirea, per esempio, la Spirea Vanuti, anche questo è il momento di potare la Spirea Vanuti che, come forse sapete, fiorisce su rami prodotti l'anno precedente, quindi potare adesso, stimoliamo la pianta anche a ricacciare vegetazione nuova che passerà l'inverno e che andrà a fiorire a primavera successiva del 2026. Quindi tutte le piante, così come il lilà, ma anche la forsizia che ho appena nominato, si comportano allo stesso modo ed è fondamentale potarle adesso. Per quanto riguarda le rose, che come sapete ormai chi segue questa rubrica ha capito che io ho a che fare parecchio con le rose, anche lì è necessario tenere le rose pulite dallo sfiorito senza, diciamo, intervenire in modo maniacale e potare troppo, ma sbocciolare, quindi potare 2 o 3 gemme sotto dal fiore sfiorito, in modo da tenere pulita la pianta, che è anche poco interessante, insomma, con tutta la fioritura un po' passata, e stimolarla anche a ricacciare nuovi fiori, perché ancora che siamo all'inizio, diciamo, della stagione calda, le rose rifiorenti ancora hanno tutta la vitalità per poter riportare nuovi, frutti, cioè i fiori, quindi è bene tenerle pulite. E anche in questo caso, nel caso delle rose, date un'occhiata alle foglie e cercate di osservare in che stato sono, perché possono manifestare anche loro delle macchie che vanno protette con rame o polvere di roccia, per esempio. Anche questa è una, la polvere di roccia è un minerale, quindi, che è del tutto naturale, che si utilizza sempre come trattamento fogliare, ossia che funziona proprio di contatto, si dice, perché la polvere che si deposita sulla foglia impedisce alle spore del fungo di attaccare la foglia, e quindi può essere conveniente in situazioni in cui ancora ci sia un po' di caldo umido intervenire in questo senso. Ok, allora, per quanto riguarda invece la riproduzione, che mi avevi chiesto anche quello, se non sbaglio, esatto. Allora, per la riproduzione io ancora aspetto una quindicina di giorni, ma a breve comincerò a riprodurre tutte le arbusti mediterranei. Quindi a partire dalle piante più comuni come rosmarino, elitriso, salvia, lavanda, Flomis, io inizio intorno alla metà di giugno a riprodurle e lì le riproduco da talea, e quindi asportando una parte di un getto diciamo semilegnoso, tra l'erbaceo e il legnoso, e aiutata da polvere radicanti, da ormoni radicanti, inizio tutto il taleaggio. E una volta realizzato i miei vasetti, li posiziono all'ombra. Io faccio tutto all'aperto. Negli anni ho sperimentato tantissime situazioni diverse, ma mi sono trovata molto molto bene nel fare le talee da metà giugno, diciamo, a fine giugno, e posizionarle all'ombra di una pianta. Nel mio caso io le posiziono sotto un enorme tunnel che ho fatto di Banksia, coperta dalla rosa Banksia, che è molto coprente, appunto, una rosa di grande sviluppo che ha ombreggiato tutto il tunnel, e lì loro stanno al fresco, riparate dal fresco, con un'ombra però molto luminosa, e radicano con una velocità incredibile. Altrimenti si utilizzano serre con ombreggianti. E la cosa importante è controllare sempre lo stato di umidità dei vasetti, che devono essere in una condizione di umidità costante, mai troppo bagnati, assolutamente mai troppo bagnati, e neanche mai troppo asciutti però. Quindi lì il controllo quotidiano è molto importante. Il modo con cui io bagno le talee è vaporizzando, quindi con diciamo la botte in spalla io vaporizzo, quindi non con un getto forte di acqua, ma con un getto nebulizzato. Questo è quello che mi aspetta, ecco, a breve. Okay, il lavoro che ci aspetta a tutti, sì. E tutti a questo punto, perché ora bisogna metterci all'opera. Ok, direi una buona panoramica. È una buona panoramica. Poi, ecco, per quanto riguarda ad esempio l'orto, è il momento di pensare alla produzione dell'orto invernale, si fa adesso, e si può seminare direttamente a pieno campo tutte le crucifere, quindi i cavoli, dal cavolo broccolo al cappuccio, alla rapa, la verza, il cavolo nero. Ora è il momento di seminare in pieno campo tranquillamente, anche lì mantenendo il terreno umido, evitando che faccia la crosta, una crosta secca, e quindi diciamo facilitare la fuoriuscita del cotiledone. E un modo per farlo è con una facciamatura, quindi anche seminare e facciamare subito intorno è molto utile, in modo che appunto il terreno non si cretti e non faccia questa crosta molto dura, soprattutto laddove c'è argilla, dove il terreno è un po' duro e argilloso. Certo. Bene, ti ringrazio allora per tutti questi saggi consigli. Un'altra cosa che vorrei dire, molto importante, è l'irrigazione. Quindi non solo il controllo dell'impianto di irrigazione, se l'avete, l'ala gocciolante o quant'altro, e controllare quindi che gli augelli siano liberi, che non ci siano intasature, e soprattutto irrigare nel modo giusto, perché in questo momento che ci stiamo avvicinando davvero alla stagione molto calda, il suggerimento è di irrigare raramente, ma in profondità. Raramente cosa potrebbe voler dire per un orto, diciamo, improntato? Per un orto improntato dove ora le patate sono belle fiorite, sono già belle mature, i pomodori stanno crescendo rapidamente a vista d'occhio e sono già stati legati sui tutori, in cui gli zucchini hanno già prodotto delle belle foglie, già si intravedono i primi fiori e le prime zucche piccole. Significa bagnare un paio di volte a settimana, non di più, ma fare in modo che l'acqua percoli in profondità. Ecco, questa è la mia esperienza, il mio consiglio, piuttosto che bagnare tutti i giorni poco. Questo è fondamentale. E la stessa regola vale anche per il giardino, per l'aiole, per tutta la parte ornamentale. Quindi bagnare massimo 2 volte alla settimana e tenere l'ala gocciolante aperta almeno un'ora. Questo è proprio la base, anche di più se è possibile, in modo che quella goccia, cadendo sempre nello stesso punto, riesca a farsi il suo canalino e andare in profondità e la radice della pianta segue poi la via dell'acqua e quindi va in profondità anche lei. Ottimo consiglio, direi. È un ottimo consiglio per evitare che le piante appunto soccombano con il caldo dei 40 gradi, ecco. E per quanto riguarda il prato, invece, quindi il manto erboso, anche lì diciamo, regolate il tagliaerba col taglio alto, almeno 10 centimetri, ma anche insomma una bella altezza, in modo che il sole non bruci l'erba e anche se poi andrà comunque ingiallendo alla prima pioggia, questa tenderà a ripartire e rinverdire immediatamente. Sbagliatissimo tenere il prato tagliato basso, come succede molto spesso nelle ville, mi capita molto spesso di vedere questa cosa con il prato tagliato dai robottini, impostato sempre uguale da dicembre a gennaio praticamente. Quindi ecco, non tenerlo basso. Il prato è molto importante che sia di una certa altezza. E anche per il prato, se avete l'irrigazione a pioggia, anche lì 1/2 volte a settimana tenuta abbondantemente, quindi che proprio il prato sia bagnato e sgradevole a camminarci immediatamente dopo. Ecco, Certo, come se questo è fosse importante. una grande pioggia alla fine. Come sì, emulare un pochino una bella pioggia estiva, questo potrebbe essere un po' una metafora, nel senso un'idea, ecco, a cui riferirsi Certo. sicuramente. E pacciamare, anche lì ritorno sempre un po' sugli stessi argomenti, ma il ruolo della pacciamatura è sempre più importante, se ancora non si è fatto, siamo sempre in tempo, lo siamo sempre, in ogni momento, in tempo a pacciamare. Stendiamo qualcosa sul terreno, nel nostro aiole, nell'orto, proprio per limitare l'evaporazione dell'acqua in primis e quindi risparmio idrico e in secondo luogo evitare appunto le crepature del terreno con le alte temperature. Chiaro, chiaro. Benissimo, direi che... Ah, un'altra Ecco. cosa, guarda, mi viene in mente, proprio visto la passeggiata che ho fatto oggi, almeno nelle colline dove bazzico, che sono le colline intorno a Fiesole, Caldine, eccetera, c'è una fioritura incredibile di Perico perforatum. E quindi potrebbe essere il momento ideale per raccogliere l'iperico e farsi il proprio oleolito. Se volete, vi dico come si fa. Rimandiamo a una ricerca via web, dai. Allora, sì, sicuramente si trova molto molto bene online. La cosa che si può dire è che è una cosa semplicissima da fare in casa. E più che altro Abbiamo di tutto il materiale un'efficacia per farlo. incredibile. Sì, è veramente semplice, i suoi poteri sono immensi, enormi, meravigliosi. Dobbiamo tutti avere sempre una boccettina di Perico, nelle nostre case. E la raccolta va fatta comunque la mattina presto, questa è l'unica cosa che forse non si legge molto Giusto. online, va fatta una bella raccolta la mattina presto e poi dopo 21 giorni circa dalla raccolta e quindi dopo aver messo sotto olio d'oliva di Perico lo possiamo già utilizzare. Ottimo. Questa mi è venuta in mente proprio perché ne ho visto veramente tanto. Sì, Veramente tanto. giustamente, è proprio il periodo questo, infatti. Sì, è anche chiamato l'erba di San Esatto, Giovanni, lo ma stavo qui per a San dire. Giovanni non ci si arriva. San Giovanni non ci sarà più l'iperico fiorito, Eh sì, ora ormai è quindi un po' tutto va anticipato. raccolto prima. Perfetto, ti ringraziamo tantissimo anche per questo intervento, anche di questo mese, per il nostro giugno. E, ci risentiremo quindi a luglio, si presuppone. E, grazie Questo non lo ancora. Ecco, garantisco perché andrò appena un po' via. mi sembra lecito, mi sembra Inshallah, giusto. Inshallah. Va Perfetto, allora bene. intanto grazie per ora. Ciao. Grazie, grazie a te. Ciao ciao. Ciao. Going down a dirty inner city side road, I plotted. Madness passed me by, she smiled high, I nodded. Looked up as the sky began to cry, she shot it. Met a girl from Dearborn early 6 o'clock this morning, Colfax. Asked about a bag, suburbia's such a drag, won't go back. Cause Papa don't allow no new ideas here. And now he sees the news, but the picture's not too clear. Mama, Papa, stop, treasure what you got. Soon you may be caught without it. The curfew set for rain, will it ever all be straight? I doubt it. Seven jealous fools playing by her rules, can't believe her. He feels so in between, can't break the scene, it would grieve her. And that's the reason why he must cry, he'll never leave her. Crooked children, yellow chalk, riding on a concrete walk, their king died. Drinking from a Judas cup, looking down but seeing up sweet red wine. Cause Papa don't allow no new ideas here. And now you hear the music but the words don't sound too clear. Mama, Papa, stop, treasure what you got. Soon you may be caught without it. The curfew set for rain, will it ever all be straight? I doubt it. Going down the dusty Georgiana side of the road, I wonder. The wind splashing my face, can smell a trace of thunder. Ed eccoci qua, quindi avete sentito i lavori del mese di giugno nella rubrica 30 di Conta le Gemme. E siamo arrivate alla conclusione di questa puntata. Ci sentiamo, ecco, mi è venuto in mente che cosa mandarvi lunedì prossimo, perché allora mi sembra fosse agosto scorso, avevo fatto una puntata con un esperto di rose, il quale ci aveva raccontato come gestire le rose un po' in generale, ma soprattutto nel periodo estivo, quindi questi grandi caldi, poca acqua, siccità, eccetera, eccetera. Quindi, siccome per questioni organizzative non eravamo riusciti a farla a inizio estate dell'anno scorso, beh, mi sembra lunedì prossimo, allora, che sarà il 9 giugno, un momento ottimo per farvela risentire così che siete più preparate, più prevenute a quest'estate che è già iniziata, anzi direi. Come dicevo, è finita la puntata di oggi, ci risentiamo lunedì prossimo. Prima di concludere, ovviamente, un ultimo pezzo musicale e anche un grazie al sottofondo rumoristico musicale che avete sentito durante le letture di quest'oggi e probabilmente ritornerà qui con noi, con voi, in voce su Radio Wombat, su Nervature. E intanto godetevi questa serata di questa festa della Repubblica. Un ciao caloroso a tutte e tutti. No, a volte succede che i download funzionano male, l'audio fa schifo e io non ce la posso fare, quindi mi mando un altro pezzo perché niente, questo non si poteva sentire. Buona serata ancora a tutte. Don't cry. You can rely on me, honey. You can combine anything you want. I'll be around. You write about the stars. Each one is a setting sun. Tall buildings shake, voices escape, singing sad, sad songs. Tuned to chords strung down your cheeks, bitter melodies turning your orbit around. Don't cry, you can rely on me, honey. You can come by anytime you. I'll be around. You write about the stars. Each one is a setting sun. Tall buildings shake, voices escape, singing sad, sad songs. Tuned to chords strung down your cheeks, bitter melodies turning your orbit around. Voices whine, skyscrapers are scraping together. Your voice is smoking, and last cigarettes are all you can get, turning your orbit around. Out of, out of, out of is all we have. Our love, our love is all of God's money. Everyone is a burning sun. Tall buildings shake, voices escape, singing sad, sad songs. Tuned to chords strung down your cheeks, bitter melodies turning your orbit around. Voices whine, skyscrapers are scraping together. Your voice is smoking, last cigarettes all you can get, turning your orbit around. Last cigarettes all you can get, turning your orbit around. Last cigarettes all you can get.